Radio 24 Reportage. Ahmed, Samer e Lamin. Il destino dei migranti alla roulette europea, di Valentina Furlanetto. Catania, Budapest, Idomeni. In un anno Radio 24 vi ha raccontato i confini dell'Europa e il popolo in fuga che preme a quei confini. Solo nel 2015, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è stato superato il milione di arrivi in Europa, una cifra 4 volte superiore al 2014. 200 stimati, donne e bambini. Sta venendo verso di noi. Siriani che scappano dalla guerra, afghani, iracheni che fuggono da territori in cui la guerra forse non c'è più, ma la pace non è ancora arrivata. E poi, soprattutto in Italia, maliani, ghanesi, nigeriani, senegalesi, etiopi ed eritrei che lasciano un'Africa tormentata da conflitti, terrorismo, siccità, povertà estrema. Un movimento di persone che preme ai confini del vecchio continente e lo obbliga a ridefinirsi. Ciascuno di loro ha una sua storia e attraverso le loro storie si capisce anche dove stiamo andando. Ho incontrato Lamin del Gambia, di 25 anni, sul ciglio di una strada a Mineo, in provincia di Catania, dove sorge il più grande centro per richiedenti asilo in Italia, uno dei più grandi in Europa. È qui che vengono portati i migranti che attraverso il Mediterraneo approdano al confine sud del vecchio continente. Lamin ha aspettato un anno e mezzo che la commissione incaricata di avvalorare o meno la sua richiesta d'asilo gli consegnasse i documenti. Per 18 mesi ha dormito al CARA di Mineo, centro di uno scandalo per mafia capitale, e ha lavorato in nero negli aranceti attorno al CARA. Poi, vedendosi rifiutata la richiesta d'asilo, Lamin ha fatto ricorso e nel frattempo è scappato. I come to save my life from Gambia. Sono venuto per salvare la mia vita, perché in Gambia ero in pericolo. Il mio patrigno mi torturava, mi picchiava, mi frustava con delle catene, mi ha anche mozzato un dito. Mia madre a un certo punto ha deciso che era troppo e mi ha affidato a un imam. Quando l'autorità religiosa è morta, ho deciso di fuggire in Libia, dove sono stato sottoposto a un periodo di lavori forzati, prima della fuga e del viaggio verso l'Italia. Ho chiesto il permesso di soggiorno per motivi politici, ma non l'ho ottenuto. Allora ho fatto ricorso, ma non sono sicuro che andrà bene. Quindi sono scappato. Ora sono in Germania, lavoro in nero al mercato. Qui c'è mio cugino che ha ottenuto un permesso di soggiorno. Dormo da lui, siamo in 7 in casa. Ci alterniamo a dormire sui letti e per terra, perché non c'è abbastanza posto. Ma è meglio qui che al CARA, lì non mi sentivo libero, capito? Il Gambia, il paese dal quale Lamin proviene, a dicembre è diventato una repubblica islamica. Lo ha deciso il controverso presidente Yahya Jemel. Tuttavia, a Lamin non è stato concesso per questo l'asilo politico in Italia. E così è diventato un fantasma. Funziona in questa maniera per la maggior parte dei migranti che vedono rigettata la domanda d'asilo. Se non c'è un accordo con il paese d'origine, al migrante viene consegnato un foglio di via con la richiesta di andarsene entro 7 giorni. In quei 7 giorni il migrante di solito sparisce, diventa un fantasma. Ahmed è andata meglio, è riuscito ad andare in Germania e non è più un invisibile, perché è siriano e la sua domanda è stata accolta. Fuggito da Damasco assieme alla moglie e alle 3 figlie, Ahmed ha percorso ad agosto 2015 la rotta balcanica. Dalla Siria è passato in Turchia, hanno preso una barca e sono riusciti ad arrivare in Grecia. Dalla Grecia in autobus, treno e a piedi sono risaliti in Macedonia, poi in Serbia, infine in Ungheria. Arrivati stremati alla stazione Keleti di Budapest ai primi di settembre, sono rimasti bloccati assieme a migliaia di altri perché il governo ungherese aveva deciso di non fare più passare nessuno. È lì che ci siamo incontrati, alla stazione Keleti. Ma dopo 3 giorni e 3 notti in cui Ahmed e la sua famiglia hanno dormito sul marmo al freddo, assieme agli altri si sono alzati, si sono messi in marcia, un fiume umano che ha iniziato a camminare verso l'Austria, attraversando la città, i campi, i ponti, le strade. Ora Ahmed ha raggiunto il suo sogno. Hello, how are you, Valentine? Now I'm Germany. Sono in Germania. Non faccio più il cardiologo, che era la mia professione a Damasco, ma me la cavo, faccio il taxista. Ho imparato un po' la lingua, le mie figlie vanno a scuola. Mia moglie fa fatica ad abituarsi al clima e alle abitudini di Amburgo, però in generale stiamo bene. Ci troviamo con gli amici siriani che vivono qui e parliamo per ore del nostro paese. Passano i mesi e anche l'ex Repubblica Jugoslava della Macedonia chiude a febbraio 2016 il confine con la Grecia, impedendo il transito di circa 7.000 rifugiati e migranti che si sono ammassati lungo il passaggio di frontiera nella cittadina greca di Idomeni. In pochi giorni i rifugiati diventano 10.000, poi 12.000 e così ai primi di marzo il campo è una distesa di tende di fortuna, stracci, fuochi improvvisati, bambini che corrono fra i rifiuti. Oltre non si passa. È qui che incontro Samer, siriano di Yarmouk, 23 anni, che sopravvive con la madre in una tenda. Tre mesi dopo il nostro incontro a Idomeni, cerco di contattarlo, ma il telefono di Samer suona a vuoto. Poi, a un certo punto, qualcuno risponde. Hello. Samer, Almania. Ben, perché? Turchia. Samer è in Germania, dice una voce femminile. Io sono stata rimandata in Turchia. Siamo siriani, siamo stati rimandati qui. La persona che parla è una dei siriani rimandati in Turchia dopo l'accordo fra Bruxelles e Ankara che prevede lo stanziamento di 3+3 miliardi a favore di Ankara per la gestione dei rifugiati e gli altri profughi che erano ammassati ai domeni. Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere. Beh, prima di tutto bisogna dire che appunto moltissime delle persone che stavano ai domeni non sono assolutamente state relocate in Turchia, ma sono all'interno di alcuni campi in Grecia, alcuni dei quali in condizioni assolutamente gravi. Addirittura l'ONU li definisce alcuni di questi non ci metterebbero nemmeno gli animali, insomma, per cui per definirlo loro, che insomma hanno parole misurate generalmente, perlomeno più di noi, sicuramente la situazione è sufficientemente grave. Sapevamo che le 54.000 persone presenti in Grecia in questo momento non hanno la possibilità di essere accolti rispettando gli standard minimi di accoglienza che l'Europa dovrebbe imporre e sicuramente la situazione della Turchia rimane molto più difficile per noi avere una visibilità, nel senso che non siamo presenti all'interno dei centri, ma sappiamo e abbiamo visto in questi giorni delle situazioni particolarmente difficili. Ricordo che la Turchia ha 3 milioni di siriani presenti sul territorio, quindi una situazione difficilissima e il tanto contestato da noi accordo europeo e turco sta producendo questo, anche perché oltre ad essere un accordo ingiusto, cinico, che come dire esternalizza il problema della migrazione a uno stato terzo, al di fuori praticamente dei confini dell'Unione Europea, è anche stato un accordo che non prevedeva di preparare prima di mettere in funzione queste relocazioni forzate dei campi degni di questo nome sia in Grecia che in Turchia, quindi insomma è stato fatto molto rapidamente, anche perché doveva in qualche maniera servire a coprire queste dichiarazioni politiche che l'Europa doveva prendere, perché effettivamente era stato montato, no, questa grande notizia dell'assedio in Europa e quindi insomma questi sono i risultati, secondo me molto molto gravi. I dubbi delle ONG e delle agenzie umanitarie sulla Turchia permangono. D'altra parte la Turchia è un paese in cui i diritti umani vengono rispettati molto poco ed è anche il paese dove viene tollerato il lavoro minorile che, secondo alcuni report, coinvolge in questo momento anche molti bambini siriani. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF. Allora, ancora una volta su questo tema sta accadendo quello che accade anche per la guerra in Siria in generale, cioè che noi esattamente un anno fa, era il luglio del 2015, avevamo denunciato che il conflitto e la crisi umanitaria in Siria stavano spingendo un numero sempre crescente di bambini verso lo sfruttamento del mercato del lavoro. non soltanto appunto in Giordania, in Iraq e in Libano, dove, per citarne uno, tre quarti dei bambini di strada sono purtroppo dei rifugiati siriani e sono costretti al lavoro, ma il caso della Turchia è emblematico perché abbiamo evidenze anche di bambine rifugiate siriane, anche di appena 8 anni, che vengono costrette a fare qualsiasi tipo di lavoro. Quindi diciamo, in qualche modo, queste notizie che sono arrivate non ci hanno lasciato assolutamente impreparati, anzi abbiamo proprio ribadito in questi giorni che praticamente questa crisi siriana, che peggiora, ha ridotto sicuramente le opportunità di sostentamento delle famiglie, ha impoverito milioni di queste all'interno della regione, e quindi è chiaro che poi nella fuga e nell'arrivo in altri paesi è chiaro che il lavoro minorile sta raggiungendo dei livelli assolutamente critici. E voglio aggiungere che i bambini in Turchia lavorano naturalmente per sopravvivere e sono praticamente dei veri e propri attori economici, lo abbiamo visto anche in alcuni servizi televisivi. Un rapporto dell'UNICEF pubblicato poco tempo fa ha affermato che ci sono anche dei bimbi che lavorano in condizioni anche pericolose, ossia che, per quanto riguarda la nostra organizzazione, vuol dire che rischiano gravi danni per la salute e per il loro benessere, anche perché, lo voglio ribadire, il lavoro minorile ostacola la crescita, lo sviluppo dei bambini, anche perché sono costretti a lavorare per lunghe ore per pochi soldi in ambienti naturalmente che sono piuttosto insalubri. Oltretutto lasciano la scuola, anche quelle che noi attrezziamo nelle zone in cui ospitiamo e aiutiamo i rifugiati, quindi di conseguenza la situazione confermiamo che è abbastanza drammatica, ma l'avevamo denunciata già un anno fa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.